colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima, siamo in onda con voi oggi lunedì 16 novembre dalla Maison de Culture de Saint-Gilles e qui con me per una nuova puntata dei Colori dell'Anima ci sono i nostri cari amici Leandro e Tiziana. Ciao a tutti, grazie di seguirci, grazie per i vostri like sulla pagina Facebook che vi ricordiamo, siamo arrivati a 150, quindi molto bene. La pagina è Rossella, virgola, Tiziana e Leandro Neir, collegatevi, cliccate mi piace, seguiteci e approfittatene per intervenire durante la puntata. Vi ricordo anche i numeri di telefono che sono lo 02347 2656 e no, il fax mi sa che non vi serve, quindi abbiamo il numero fisso e Facebook. Fatevi sentire perché questa sera trattiamo di un argomento che ahimè ci tocca proprio tutti. Sì, sono convinta quindi sono convinta che spero che in tanti ci ascolteranno e l'argomento sarà interessante, sì, per tante persone. Vorremmo avere un dibattito aperto questa sera, ecco perché come tutti voi sapete, come tutti noi sappiamo, sabato mattina ci siamo svegliati rattristati da questa notizia di terribili attacchi terroristici avvenuti a Parigi. E abbiamo provato a pensare su cosa fare la puntata radio questa sera ed è stato difficile non escludere il tema. È un tema interessante, è un tema che bisogna cercare di capire. La nostra idea è questo. Io direi che è stato anche difficile pensare di poter parlare di qualcos'altro, di poter scherzare su qualcos'altro, così senza prendere in considerazione la gravità anche di quello che è successo. Esatto, a cuor leggero fare una puntata così non è molto facile, ecco, il clima in cui siamo a Bruxelles non ce lo permette neanche molto facilmente. Sì, infatti. E l'idea di questa sera è soprattutto di cercare di capire cosa è successo. E cosa sta succedendo, non solo cosa è successo quel giorno, perché io direi che è un processo in evoluzione. Cosa è successo? E soprattutto come possiamo noi comportarci giornalmente. E per fare questo, però, per fortuna non siamo noi qui da soli, ma abbiamo due grandi esperti in studio, uno dei quali voi già lo conoscete. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa, perché infatti Leandro è un esperto di terrorismo che ci aiuterà a sbrogliare questa matassa che è sempre più complessa da capire. E con noi anche in studio abbiamo Tony. Ciao Tony. Ciao, ciao a tutti. Che è un esperto di dialogo interreligioso. Quindi cercheremo di affrontare un po' questo argomento con dal lato un po' più della teoria, il nostro caro Leandro ci istruirà e dall'altro lato Tony ci darà qualche esempio, qualche messaggio, qualche attività concreta nella quale tu alla quale tu ti dedichi. Io direi di cominciare però con un omaggio che noi facciamo alla Francia, con la nostra prima canzone, poi subito dopo entriamo nel vivo della discussione. Grazie Rossella. Quindi abbiamo pensato che forse il modo migliore, la canzone migliore per cominciare era proprio la Marseillaise, cantata da Edith Piaf. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E rieccoci in onda questa sera, 16 novembre, abbiamo appena ascoltato la Marseillaise di Edith Piaf, ecco, come omaggio a Parigi, ma in realtà ci preme dire che è un omaggio a tutte le vittime innocenti delle guerre che sono in ogni angolo del mondo, quindi per tutti voi, non solo per per alcuni in particolare. E quindi questa sera, come abbiamo accennato prima della canzone, la nostra idea è di cercare di capire un po' cosa è successo a Parigi, perché è successo e come possiamo continuare noi a vivere senza cadere nella tentazione della paura. Ma, ecco, della paura e dell'odio. E dell'odio soprattutto. In quel però, circolo diciamo, vizioso che si autoalimenta. Che non, sì. Allo stesso tempo però va anche detto che, ecco, non abbiamo la pretesa di spiegarvi in un'ora il complesso fenomeno del terrorismo, però ecco, cerchiamo di capirci un po' di più, ecco, perché io quando guardo sento i telegiornali, leggo i giornali, ecco, mi perdo, non riesco a seguire. Quindi Leandro, aiutaci un po' tu a capire gentilmente che cosa è successo innanzitutto a Parigi venerdì notte. Allora, salve a tutti intanto, sì, mi trovo qua in veste insolite perché di solito curo la regia della trasmissione, ma invece... Se levate il cappellino da regista, l'ha dato a me. Dato che praticamente lavoro come analista di terrorismo presso un istituto di Bruxelles che si occupa di questo, allora mi sembrava in effetti importante, appunto come avete detto voi, parlare di quello che è successo e metterlo in una prospettiva larga e abbastanza comprensibile. Come hai detto tu, Rossella, non possiamo spiegare un fenomeno estremamente complesso in pochi minuti. Però che cosa è successo in pratica il venerdì sera del 13 novembre? È successo che qualcuno ha attaccato profondamente noi tutti, non solo i parigini, ma noi tutti. Dei ragazzi che un venerdì sera volevano distrarsi, avevano magari appena lasciato il lavoro, sono morti nella maniera più atroce, perché ci sono stati attacchi coordinati in più punti di Parigi, compiuti a quanto pare da almeno 8 persone, vestiti con vesti esplosive di cui appunto 7 di loro si sono poi fatti saltare in aria, armati di fucili mitragliatori che hanno colpito più punti di Parigi, hanno colpito lo Stade de France, diversi ristorantini, quindi la zona della vita notturna di Parigi, e poi sono entrati al Bataclan, una famosa sala di concerti dove c'era un concerto rock, e l'hanno fatto veramente una strage terribile, uccidendo a sangue freddo decine e decine di ragazzi. Ecco, bisogna che capiamo una cosa dura, però che è importante. Il tuo messaggio chiave. Sì, ed è che siamo in guerra. Però è una guerra che non riguarda solamente noi, ed è una cosa importante questa da capire. Questa guerra riguarda noi sicuramente, perché questa volta ci hanno colpito dentro casa direttamente. Però il giorno prima c'era stata un'altra bomba a Beirut. Esatto. Ci sono ogni giorno persone che muoiono uccise dal terrorismo islamico in Siria, in Iraq, in Somalia, in Libia, in Nigeria, in Afghanistan, in altri posti, e di cui spesso non si parla. Ora, siamo in guerra, e quindi questo implica che c'è un problema all'interno dell'Islam, però all'interno di una parte. Il fenomeno del terrorismo islamico non riguarda tutto l'Islam. Purtroppo, ogni volta che succedono degli attacchi contro l'Occidente, scattano in molti populisti dei messaggi sbagliati, che non solo sono sbagliati, ingiusti, ma sono stupidi, perché dicono sono controproducenti perché dicono che tutti i musulmani sono terroristi. Questo è assurdo e controproducente, perché se noi vogliamo vincere contro i terroristi islamici, i nostri migliori alleati devono essere musulmani, che sono le vittime numero uno, le vittime che muoiono ogni giorno in tutti quei paesi che ho nominato prima, senza nemmeno grande pubblicità. No, esatto, senza eco mediatico, esatto, come quello che ha ricevuto nei paesi occidentali. Esatto. Ora, siamo di fronte a un nemico armato, un nemico che odia l'Occidente per quello che rappresenta, che pensa che la modernità sia incompatibile con la religione. Ma questo credo non è assolutamente accettato dalla maggioranza dei musulmani che vivono nei nostri paesi. Il fenomeno del terrorismo islamico è molto recente e non è da sempre connaturato nell'Islam. Il fenomeno, per esempio, del terrorismo suicida è veramente nato alla fine, diciamo, della dopoguerra, del secondo dopoguerra, a livello teorico. I primi teorici che hanno elaborato il jihadismo non esistevano prima nel mondo islamico. Quindi risaliamo dopo la seconda guerra mondiale. Più o meno sì. Diciamo che il più grande e famoso teorico, Said al-Qutb, era un egiziano che ha elaborato le sue tesi jihadiste negli anni 50. Prima ancora c'erano stati altri teorici che venivano da un movimento sunnite, perché sappiamo che l'Islam si divide in due grandi branche, no? I sunniti e gli sciiti. E all'interno dei sunniti ci sono tante altre affiliazioni, e una fra queste è quella salafite. I salafiti vengono chiamati così perché credono che bisogna ritornare a un Islam puro, non corrotto, come era quello vissuto da Maometto e dai primi musulmani. Ma all'interno dei salafiti stessi non tutti sono d'accordo. Quindi possiamo facilmente, ecco, forse una cosa semplice che possiamo dire è che questo è un gruppo di estremisti fanatici. Sicuramente, ma che all'interno di una branca, di una branca di una grande religione. Ok. Cioè, non possiamo quindi fare di tutto un'erba un fascio. E quello che voglio dire, chiaro, è che quindi se si esamina storicamente l'evoluzione di questo fenomeno, intanto è molto recente. È condannato in buona parte dalla stragrande maggioranza dell'Islam, perché per esempio alcune pratiche come lo stesso farsi saltare in aria sono incompatibili con l'Islam, perché l'Islam non permette il suicidio. Sì, sono delle letture estremiste. Però, del Corano, praticamente, sì, interpretazioni piuttosto che non sono condivise da tutti. Che non sono condivise. Ok, quindi questo è una cosa da dire. L'altra cosa, ovviamente, è che ci sono delle persone che ripudiano in toto la possibilità che l'Islam possa crescere in un ambiente occidentale, quindi in cui ci sia uno Stato laico, in cui ci siano delle libertà come li intendiamo noi, e che ricorrono alla violenza armata. Queste persone in questo momento si rifanno, come sappiamo, a soprattutto due gruppi terroristici organizzati, jihadisti, che sono Al-Qaeda e lo Stato Islamico. Lo Stato Islamico è nato come, che si chiama anche ISIS. Sì, quello che ha varie sigle, IS, Islamic State, lo esatto, troviamo oppure Daesh, spesso, usando l'acronimo in arabo, o ISIL. In realtà è nato molto recentemente, era la costola irachena di Al-Qaeda, che era tanto così violenta nelle sue tattiche, nel suo, diciamo in gergo, modus operandi, era così violenta che è entrata subito in conflitto con la leadership centrale di Al-Qaeda. Ma questo gruppo si è evoluto enormemente grazie alla guerra civile siriana, che è scoppiata nel 2011 a seguito delle primavere arabe, e si è ingrandito e talmente che oggi controlla un territorio molto grande tra la Siria e l'Iraq. Ecco, Leandro, grazie, che ci stai portando già dentro a fondo nella storia, però ecco, questo gruppo così recente, che però tu ci dici che ha già preso molto, ha preso piede in questi territori. questi territori, che cos'è che permette a un gruppo del genere di prendere potere? L'assenza di stabilità? La povertà? Sì. E questo è un punto che anche si ricollega all'osservazione che tu hai fatto, che ecco, 48 ore o 24 ore prima l'attacco di Parigi ce n'era stato uno a Beirut, dove sono morti... Allora, diciamo che la situazione è estremamente delicata e complessa là in Medio Oriente. Il Medio Oriente in genere è un insieme di detonatori collegati l'uno all'altro. La polveriera a cielo aperto. Quindi, allora, cosa sicuramente sono tanti i fattori che portano delle persone a unirsi a un gruppo terrorista. Non tutti i terroristi sono poveri. Quindi il fattore povertà è uno dei fattori, ma non è solamente quello. È la condivisione sicuramente di un'ideologia, spesso è una chiave di difesa, perché spesso, ecco, in Iraq per esempio recentemente, questo gruppo terrorista ha potuto contare sull'appoggio della popolazione locale, che aveva paura di un'altra parte della popolazione che era sciita. Quindi questo gruppo sunnite si è autoproclamato campione, paladino dei sunniti iracheni, e quindi ha trovato un appoggio da parte della popolazione locale che si percepiva oppressa da parte del governo sciite. Sì. Quindi, allora, il Medio Oriente quindi è... Una situazione estremamente complessa. Ha una situazione estremamente complessa ed è sicuramente lontano in ogni caso dal nostro sistema di democrazia. Qual è il nostro sistema di democrazia, però, Rossella? Ecco, non mi piace proprio parlare del nostro sistema di democrazia, che esiste la democrazia nostra. Allora, perché, no, appunto, penso che non ti piaccia spesso, perché ma non è spesso quello che noi vorremmo. Però, in realtà, le democrazie che ci sono nei nostri paesi vengono chiamate liberal democrazie. Cioè, non si basano semplicemente su il governo della maggioranza, della metà più uno della popolazione che vota e che fa andare al governo un'elite piuttosto che un'altra. Sì. Questo è il modo di funzionare di una democrazia. Sistema elettorale. Esatto. Ma una democrazia liberal democratica è tale se ha un fattore chiave, cioè se rispetta le minoranze. Questo è qualcosa che va al di là di un sistema elettorale, questo è qualcosa di culturale. Sì. Quando parli di minoranze, parli di minoranze di diversità di opinioni, di diversità di etnie, di diversità nella maniera più ampia possibile, esatto, del termine, non di minoranza solo, che spesso si pensa a una minoranza etnica, no, di minoranza di opinioni, di religione, di cultura, esatto, il rispetto del diverso. Ma questo, che ancora oggi stenta spesso anche da noi a essere praticato, ha richiesto secoli di lotte, secoli di storie, eccetera. Quindi è chiaro che non si può pensare che in altri paesi questo sistema di valori possa essere esportato o arrivare così in una manciata di anni, e men che meno esportato con le armi. Il problema che invece oggi questo è un punto importante della storia, ed è anche probabilmente un errore di politiche estere che sono state prese un po' a cuor leggero, forse. Se noi pensiamo all'invasione dell'Iraq o alla guerra in Libia, che cosa hanno portato? Ecco. Hanno portato alla cacciata di alcuni dittatori, ma senza aver elaborato una strategia per quello che veniva dopo, pensando che la democrazia forse sarebbe nata spontaneamente, ma così non è, perché la democrazia è un bagaglio di valori culturali che si possono imparare, che si devono insegnare, ma che non vengono, come dire, imposti con la forza e con la violenza. Però che devono essere difesi. Che devono essere difesi. Questo sicuramente. Okay. E si devono anche fare metabolizzare alla gente. La gente li deve sentire questi valori. Deve sentirli propri. Deve sentirli non propri. Non devono essere imposti. Però devono anche essere fatti rispettare da coloro che già li hanno. Per cui adesso sicuramente la risposta che ci sarà e che dovrà esserci a questo attacco diretto a tutti noi dovrà essere prima di tutto una risposta di carattere di sicurezza, quindi di carattere militare, di polizia, proprio per impedire che questi fanatici intolleranti possano colpire ancora, perché il rischio purtroppo c'è. Bene, questo, ma io siamo arrivati già alla soluzione. Vai Leandro, grande! Purtroppo so che non è una soluzione, è un punto di un puzzle, è un pezzo di un puzzle che stiamo cercando di mettere insieme. E su questo farei una pausa, prenderei un attimo di respiro. Vai, con Tiziana, una bellissima canzone francese. Oggi tutte canzoni francesi, tutte dedicate alla Francia. L'abbiamo fatto un po' a caso, diciamo. Vogliamo anche prendere respiro con un po' di poesia, diciamo. E ora ci ascoltiamo Vivre Encore, scusate se la mia pronuncia non è perfetta, mi correggi tu Rossella, Bernard Lavilliere. Magnifique. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. Oggi parliamo di un tema caldo, caldissimo. Stiamo ascoltando il nostro Leandro che ci aiuta un po' a comprendere cosa è successo venerdì e cosa sta succedendo nel mondo. Abbiamo analizzato, anzi lui ci ha aiutato a capire quali sono i retroscena dell'ultimo evento realmente tragico che ha coinvolto la Francia e tutto il mondo, stavo dicendo, e ora cerchiamo di andare un po' avanti. Abbiamo fatto una piccola pausa con una canzone che era un po' impegnata, ecco, non è stata molto distensiva, ma però era un po' rilassante, sì, anche è stato un momento di pausa relax musicale. Però ecco, ritorniamo in studio con Leandro, che appunto ci ha chiarito un po' come il terrorismo è un fenomeno, o quantomeno nei termini tragici in cui lo abbiamo conosciuto noi, che si è sviluppato recentemente e che necessita assolutamente di un intervento, aggiungerei coordinato, da parte di tutti i paesi europei, musulmani e sì, di qualsiasi parte del mondo, uniti, fermo che è forte perché nei riguardi di chi, insomma, pensa, di chi vuole uno scontro di civiltà, il famoso scontro di civiltà che aveva terrorizzato Samuel Huntington, è in realtà esattamente l'obiettivo a lungo termine che hanno i terroristi islamici. Ogni atto terroristico è una strategia che vuole una reazione esagerata, una rappresaglia. Ogni atto terroristico vuole in sé stimolare, causare una rappresaglia, una reazione eccessiva. Più eccessiva la reazione, più sarà eccessiva la controreazione, che stimolerà un'altra reazione in una spirale di violenza infinita. Quindi questa per è poter la logica. Giustificare il loro ulteriore, la loro ulteriore dose di violenza. Bravissime. E di esattamente questo. Quindi esattamente la loro questo. Forza dipende dalla nostra reazione. Esattamente, la loro forza dipende dalla nostra reazione, in qualche modo. Quindi la nostra reazione deve essere sia basata sulla difesa dei nostri valori, dei valori che anche sono condivisi da molti musulmani, cioè sulla possibilità di vivere insieme in pace e nella libertà. Però non può essere solamente una visione da un punto di vista militare, perché come abbiamo visto purtroppo nell'attentato di Parigi e come abbiamo visto anche in altri attentati, i terroristi islamici non vengono, come alcuni pretendono, dai barconi con gli immigrati, eccetera. Vivono già fra noi. E vivono già fra noi perché molto probabilmente non si sono integrati adeguatamente. Oggi a Bruxelles, in un quartiere specifico di Bruxelles, Molenbeek, c'è stata una forte operazione di polizia, perché Molenbeek è ritenuto, purtroppo, ha ragione, una base logistica, una base ideologica per molti terroristi. Noi viviamo in un paese, il Belgio, che proporzionalmente ha esportato più combattenti verso la Siria di tutta Europa, 500 in una popolazione di 10 milioni di persone. Questo significa che molti di questi ragazzi della nostra età non credono dei nostri valori, perché non li hanno sentiti. Non li hanno sentiti per una serie di motivi, non solo per la povertà, ma anche per la povertà. Molenbeek ha il 40% di disoccupazione giovanile. Perché? Perché negli scorsi decenni è stata semplicemente ritenuta un ghetto, una periferia, in cui mandare denaro, assistenzialismo, mero assistenzialismo, senza progetti, senza programmi educativi, di lavoro, è isolata, messa da parte. Questo ha permesso a cattivi maestri, di estremisti islamici, di prendere una serie di ragazzi che non avevano altre prospettive, di metterli in gruppo, di farli sentire parte di un gruppo, di farli sentire amati da quel gruppo. Mi spiego? Sì, sì, la forza di attrazione, esatto, di dare un senso alla loro vita nel momento in cui tu non hai valori, non hai prospettive sociali, economiche, future. E perché cosa... non cedere, esatto, a questo progetto? Esatto, è un progetto però perverso. E qui mi viene la domanda, che penso è quella che tu vuoi scaturire, e se questi ragazzi invece fossero stati integrati, avessero avuto un'infrastruttura sociale che gli permetteva di avere una forza, di avere anche un'idea per rispondere in modo differente. Almeno avrebbero avuto una chance. Almeno sì, avrebbero avuto, sì, una chance. Non, ripeto, in povertà non tutti i terroristi sono poveri. Però sicuramente è un dato di fatto che moltissimi di quelli che sono diventati terroristi vengono da queste periferie ghetto, vengono da questi luoghi dove non c'è la possibilità di essere integrati, dove ci si sente esclusi. Sì, ecco, la parola chiave che tu stai dicendo è importante, anzi chiamerei a parlare con noi anche Tony, ma ecco, mi fa pensare, come hai detto tu, ecco, non è solo la povertà è un fattore che aumenta, che chiaramente... un'aggiunta, un fattore che non è sufficiente a scatenare questo tipo di fenomeno. Forse il fattore scatenante è proprio la mancata integrazione, la mancata conoscenza dell'altro, e quindi il mancato incontro tra i nostri valori. E se non c'è conoscenza, non c'è incontro di valori, c'è scontro, c'è indifferenza. Sì, c'è, sì. A me colpiva tanto quello che diceva Leandro, in particolare mi colpiva anche questo fatto di configurare, di vedere questi eventi nel tempo, di pensare che per creare un dialogo c'è bisogno di tempo, che magari una notizia di un atto terroristico va subito sulle prime pagine, però lo sforzo di anni, di decenni, di costruire un dialogo non va sui giornali, cioè arriva lì quando diventa una cosa di popolo. È veramente, io penso che qui, io sento che il nostro compito, la reazione personale di ciascuno può giocare un ruolo importante, forse più... Cioè, magari si dice ogni volta, ma più che in altri momenti, il fatto di sentirsi responsabile dei fatti storici ci tocca, no? E cosa vuol dire per me sentirsi responsabile dei fatti storici? Non significa che dobbiamo noi armarci e andare a combattere o fare degli atti eclatanti, ma forse è il semplice sorriso, trovarsi qui a Bruxelles e incontrare delle persone che sono di un'altra religione, e non distanziarci o non guardarli come delle persone strane, ma sentirli che sono parte della nostra società occidentale, perché noi siamo occidente di qualche cosa, ma della nostra società in realtà, di non metterci a delle etichette. Io mi ricordo, volevo raccontarvi un piccolo fatto, no? È accaduto a una signora musulmana che una ventina d'anni fa si è trovata a essere la prima musulmana ad abitare in un paesino del Lussemburgo e a sentirsi guardata come se fosse un animale raro, perché nessuno aveva visto una donna con un velo, e lei sentiva che doveva fare qualche cosa, e allora ha deciso: ma io la prima cosa che farò è quella di mettermi, cioè di donare qualcosa di mio, di farmi conoscere. Allora ha portato alle vicine del couscous, che è un po' il cibo classico del Marocco, da dove lei viene. E questo all'inizio ha portato un pochettino di incertezza, non, i vicini non sapevano come reagire. La prima domanda che l'hanno fatta: dobbiamo dare qualche cosa a questo cibo? E lei ha detto no, è perché sono arrivata qua per fare festa insieme. E da quell'atto, no, che potrebbe essere anche una cosa, sembrare irrisoria, no? Sì. Come noi che a un certo punto facciamo una spaghettata la sera, no? E da quell'atto è nato un colloquio, e a un certo punto così è andato così avanti che lei in alcune occasioni poteva lasciare i suoi figli dalle vicine, cioè non era più vista come una cosa lontana da loro, ma era la loro vicina, una persona con cui dialogare, con cui c'erano delle differenze sicuramente culturali nel modo di vestirsi, nel modo di pensare, ma questo non impediva di poter costruire un rapporto, no? di sentirsi in un certo modo affratellati, no? E tante volte anche fra noi fratelli non è che abbiamo tutti lo stesso modo di pensare. Io penso che è vero che non bisogna minimizzare le differenze culturali, perché ci sono, e anche possono essere una fonte di ricchezza, no? Ci possono arricchire. Ecco, allora adesso io non so, ecco, sono tanti discorsi, sembrano utopici, no? Vista la situazione attuale. Sì, sembra, da dove incominciare? Questa è una goccia nel mare, sì. Praticamente, Però, po' la teoria. Come diceva Tony, io penso che sia essenziale. Essenziale perché, soprattutto oggi, no, abbiamo visto con questi attentati, ma di volta in volta, ogni volta che avvengono, succede di continuo, ci sono sempre, delle impennate di islamofobia, cioè della paura dell'Islam nel suo complesso, di xenofobia, cioè della paura dello straniero. Nella sua totalità. Allora, questi atteggiamenti, più sono votati alla paura, più, come ho detto, provocano o possono provocare delle reazioni smodate, esagerate e sbagliate, che fanno di tutto un erbo un fascio e che fanno il gioco dei terroristi. Perché fanno il gioco dei terroristi? Perché, come ho detto prima, lo scopo del terrorista è proprio quello di provocare una reazione esagerata. Quindi, è quello di provocare lo scontro. Loro vogliono il piccolo scontro, loro vorrebbero che quello che è successo a Parigi succedesse ogni giorno nelle strade di Bruxelles. Vorrebbero che domani qualcuno attaccasse una moschea e che poi qualche musulmano attaccasse una chiesa. Questo è quello che vogliono. Sì. Se noi quindi carichiamo di odio, di pregiudizio, dicendo che tutti sono terroristi, che tutti sono uguali, quello che sicuramente dobbiamo chiedere ai nostri concittadini islamici, musulmani, è che condannino fermamente questi estremisti islamici. Mm-hmm. Questo succede a un livello ancora troppo basso. E forse questo succede ancora a un livello troppo basso. Che rispettino, anche che rispettino le nostre tradizioni nel momento in cui sono nel nostro paese. Ma ci sono molti che lo fanno. Questo, esatto. Io ho lavorato con musulmani, mi sono trovato benissimo. Ecco, raccontaci, dicevi che alla fine... Quindi, no, ma perché... la stragrande maggioranza cosa vuole? Vuole vivere in pace, vuole vivere serena, vuole avere un lavoro. Ecco, c'è questo terreno comune di cui parliamo, che diciamo prescinde qualsiasi religione, ma soprattutto... avere un futuro felice, avere una famiglia, avere gli affetti, insomma c'è un terreno comune che è l'umanità. L'umanità, ma anche che invece la stessa... manca in questi fenomeni, perché di umano... non hanno niente, anzi vanno contro esattamente la definizione di essere umano. Ma forse vanno anche contro la loro stessa religione, perché... Ah, chiaramente, sì, perché non credo proprio nessuna religione. Molte parole del Corano condannano in maniera ferma l'uccisione dei civili. C'è un versetto che condanna addirittura l'uccisione delle piante, degli alberi, figuriamoci... degli esseri umani. Quindi è chiaro che, ovviamente... come ogni religione, come tutte le religioni, si presta a varie interpretazioni, ma quello che è pericoloso è una delle interpretazioni, questa appunto jihadista cosiddetta, no? Ora, quello che è importante invece è affrontare il fenomeno non solo da un punto di vista di sicurezza, da un punto di vista militare, quello che ci vuole anche ovviamente, però come diceva Tony, la cosa importante, secondo me, da esperto appunto di terrorismo, è anche quello di affrontarlo a livello economico, a livello sociale, a livello culturale e forse anche a livello personale, appunto costruendo rapporti umani, come diceva prima Tony. Sì, e forse, ecco, se posso aggiungere, anche essendo coscienti e consapevoli di quanto sia controproducente e pericoloso giocare con questa teoria dell'altro, del pericolo che viene dal diverso, dal musulmano, dal fare tutto l'erba in un fascio, perché in realtà si va esattamente a fare il gioco degli stessi terroristi, perché si lavora contro l'integrazione, si lavora per far sentire l'altro sempre più escluso, e allora in questo modo viene invece più facilmente attratto da chi lo include in un progetto. Invece se noi lavorassimo con i musulmani, li coinvolgessimo, si facesse qualcosa insieme a loro, si creerebbe anche in questo caso qualcosa sicuramente di diverso, molto probabilmente qualcosa di diverso da quello a cui siamo abituati, ma anche molto bello. E io so che Tony, adesso ha proprio un esempio concreto da darci. Ci dà un esempio. Ma sì, sono piccole cose, no? Però già l'anno scorso ci siamo trovati, mi sono trovato a partecipare, ad aiutare all'organizzazione di un concerto interreligioso in cui c'erano dei gruppi di varie cristiani, altri musulmani che davano un contributo con una varietà estremamente brillante, con dei stili differenti, anche con molto semplici, non di un livello artistico elevatissimo, sì. Ma la cosa bella è che anche fra il pubblico c'era c'erano i vari gruppi, e quello che alla fine della serata ci ha colpito era la reazione di persone che da anni tentavano di fare qualche cosa per mettere insieme persone di differenti religioni. E si sono trovati a partecipare a questa serata e sono rimasti stupefatti. Noi questa cosa alla fine, noi la stiamo aspettando da anni, ci proviamo in tutti i modi ma non ci riusciamo. Ecco, cos'è che adesso quest'anno la stiamo ripetendo, e sabato prossimo ci sarà proprio un concerto in una sala di Bruxelles, Clariges, vicino Madou, proprio in cui partecipano degli artisti delle due religioni, e qui abbiamo cercato di coinvolgere anche delle scuole, le scuole di Bruxelles, perché è importante che dai giovani nasca questo desiderio del dialogo, di conoscersi, di sapere l'altro cosa pensa. Stasera arrivo proprio da un incontro in preparazione in cui c'erano dei giovani delle due religioni che ci stiamo mettendo un po' d'accordo sulla realizzazione, cose pratiche della serata, ma ecco, sarà una cosa, ecco, penso, semplice. Ci sono vari artisti, vari generi musicali, di musica spirituals, ma anche musica rap, ma non è tanto la musica, è anche il fatto di entrare in un posto, in un momento in cui non ci sentiamo differenti, ma che ci doniamo le nostre culture anche attraverso la musica, ma anche attraverso il cibo. Alla fine si farà anche ci sarà un piccolo buffet proprio per conoscere meglio l'altro, per sapere i gusti dell'altro, per entrare in questo dialogo che è fatto non tanto di proclami o di rafforzare le nostre convinzioni, ma di ascolto, no? di sentire l'altro come proprio, no? Io sento profondamente, magari è una mia un po' un'idea un po' utopica, però sento che la nostra cultura occidentale oramai non può vivere senza l'apporto di tutti, e quindi anche di musulmani, di altre religioni che di per sé non sono sono state nel passato, ma che attualmente non fanno parte delle nostre radici culturali. E come io penso che lì è il modo, cioè una strategia che dobbiamo attuare è quello di non separare le persone, perché fin quando le separeremo non riusciremo a vivere noi in maniera ottimale, non avremo sempre un altro, no? E E invece in questo modo riuscire a gioire e a sentire la fratellanza, perché quello che a me ha colpito una volta è stato proprio sentire un amico musulmano afghano come fratello e non come un altro o uno di un'altra religione, ma sentire con lui che potevo realizzare quella stessa sintonia che avevo con altre persone, sentire che io chiamerei un po' questo l'unità, uniformità, ma proprio unità, ognuno rimane con la sua propria concezione religiosa, ricchezza culturale, ma sente l'altro parte di sé, cioè io adesso porto in me anche lui, quello che lui ha vissuto e quello che lui pensa, e lui porta me, e allora non saremo più, non potrò fare del male a lui e lui non potrà fare del male a me, no? Un'ultima cosa che vorrei raccontarvi, che l'anno scorso anche è stato detto anche durante questo concerto, la testimonianza di un giovane egiziano che raccontava di come a un certo punto, in un periodo in cui le chiese cattoliche in Egitto erano state cattoliche, cristiane in generale, erano state prese di mira, lui raccontava di come tanti giovani musulmani si erano messi a disposizione per sorvegliare le chiese, perché sentivano che loro era un loro compito di aiutare le persone di altre religioni, che pur rimanendo musulmani loro dovevano sentirsi fratelli, e questo è stato un segno di fratellanza così forte che a un certo punto non c'era più una distinzione fra di loro, ecco. Ed è così che sì, è possibile, che è possibile. Che è bello sentire, sì. Questo, che esiste questa realtà, esiste, ancora è piccola, ancora non si è diffusa. E non va sui giornali. Non, ecco, va sui giornali, purtroppo. Però queste cose esistono, quindi è possibile questa cosa. E soprattutto è una cosa che è successa per tanti, tanti anni, cioè... È una situazione un po' attuale in cui c'è questo dissidio, però io per esempio, ma io vengo da una città in cui c'è stata una convivenza fra musulmani e cristiani e ebrei, che era una convivenza che senza odi, senza guerra. Ma ecco, e io mi ricordo tanto, tanto della cultura... è stata influenzata anche dal punto di vista architettonico, se noi adesso pensiamo a chi ha portato la matematica, l'algebra, cioè, oppure mi ricordo un'altra cosa che ho scoperto, per esempio i tulipani vengono dal mondo arabo, no? Cioè, sono stati poi sviluppati qua in Europa, ma... Come? Non sono nati in Olanda? Infatti no, io stavo dicendo lo stesso. I tulipani... Non sono olandesi. È stato un frutto delle crociate, che venendo in contatto col mondo arabo, le abbiamo prese dentro di noi. Adesso diciamo che sono nostri, ma non è, l'origine è dal mondo arabo. Ci sono tantissime cose di cui non parliamo, perché adesso non so se Leandro ci può dire qualcosa, però io a un certo punto ho sentito che durante il Medioevo la cultura araba era più elevata rispetto a quella occidentale. E attraverso le crociate, che sono stato un evento drammatico di scontro religioso, però è stata importata nel mondo occidentale. Quindi voglio dire, cioè adesso io penso che siamo tutti in uno scambio di doni, si avvicina Natale, no? Siamo un'occasione di donarci qualche cosa, non tanto di scontrarci. Sarebbe veramente bello. Magari ecco, sarà una cosa che durerà tanti anni, no? Ancora, in sì. Cui dovremo soffrire tanto. Io no? Penso di sì, però... penso di sì, che è un processo lungo, però che può partire, sì. Cioè forse è già partito in piccole dimensioni, c'è, sì. Si deve soltanto diffondere, espandere. Non lo so, ho appena ricevuto da una nostra amica Cecilia, che saluto, un piccolo articolo e vorrei concludere una citazione di questo articolo, appunto, di Ernesto Gari della Loggia, che dice che il terrorismo islamico e il suo richiamo religioso si nutrono in misura notevole dagli autoinganni, dell'ignoranza della realtà storica, delle vere e proprie falsificazioni che hanno più o meno largo corso nelle società che li stanno dietro e che da lì arrivano anche le comunità islamiche in Europa. È di questi succhi velenosi che si nutre la formazione elementare di molti dei suoi adepti. Se a costoro si riuscisse a svuotare un poco l'acqua in cui nuotano o a chiarirgli appena un po' le idee prima che imbraccino un mitra, non sarebbe un risultato da poco. E penso che questo sia proprio esattamente il messaggio che Tony insomma, ci ha consigliato, insomma, quello di togliere il... insomma l'acqua in cui essi nuotano prima che imbraccino un mitra, mostrando che c'è un, insomma, che noi non siamo nemici, ecco, ma siamo concittadini che vivono nello stesso paese molto spesso e che devono trovare un modo per vivere bene insieme. Sì, e che non abbiamo forse neanche possibilità di scelta all'integrazione, perché nel mondo in cui siamo il flusso tra da un posto all'altro è sempre stato presente e sarà sempre così. Quindi l'unica arma che abbiamo reale è quella di ascoltare, conoscere l'altro, rispettarlo e lavorare affinché l'integrazione non sia un valore, ma qualcosa che mettiamo in pratica ogni giorno. E allora io concluderei, visto che ragazzi forse non ve ne siete accorti, ma la trasmissione è volata più velocemente del solito. Proprio ce la siamo divorata quest'ora e dobbiamo chiudere. Vorrei chiudere ricordando di questo concerto. Se vi trovate a Bruxelles, se volete andare anche contro questo clima che si sente anche a Bruxelles, non so dalle altre parti, immagino dappertutto, lo so, guardando i telegiornali si vede, però a Bruxelles si sente tanto questo clima di paura, sì, di qualcosa che sta per succedere, che potrebbe succedere, eccetera. Venite a questo concerto di sabato, è un modo per reagire, è una bella cosa, è un modo di contribuire attivamente a un'iniziativa che contrasta proprio questo fenomeno, che fa qualcosa di attivo. E allora Tony, ricordaci dov'è. Allora sarà appunto sabato 21 novembre alle 6 nella sala Clarige, Chaussée de Louvain 24 a Bruxelles, vicino alla stazione della metropolitana di Madoux. Ok, noi ora metteremo tutto sul sito, il volantino, tutte le informazioni per chi volesse venire e ascoltare. E un'altra cosa prima di chiudere, noi dobbiamo ricordarci come sempre che qui siamo ai colori dell'anima e quindi come in tutte le trasmissioni cerchiamo di dare un colore alle nostre emozioni, alle emozioni di oggi, a quello di cui abbiamo parlato. Quindi chiediamo a Leandro e a Tony che colore dare alla puntata di oggi e anche una piccola spiegazione. Ma io non so, mi vengono tanti colori, però forse l'arancio è un colore intermedio. È il colore intermedio. Del sole. Sì, un colore del sole, della speranza, di una vita, no? Che...